Energico, determinato, con la grinta di un tempo, ieri notte Barack Obama ha cercato di riconquistare il cuore degli americani, ha promesso di creare posti di lavoro. Lavoro, lavoro, lavoro è stato il ritornello continuo di questo suo discorso. Nel 2010 ha detto: deve essere la nostra preoccupazione numero uno. E ha detto: la gente è senza lavoro, è gente che soffre e che ha bisogno del nostro aiuto. Let me repeat. We cut taxes. We cut taxes for 95% of working families. Abbiamo ereditato una situazione difficile, dunque siamo passati all'azione, dice Obama. Abbiamo tagliato le tasse, al 95% dei lavoratori e riesce persino ad improvvisare una battuta. Sento che su questo tutti mi applaudite, in effetti anche i repubblicani si erano alzati in piedi in un'ovazione. È stato in questo passo del discorso che Barack Obama ha rievocato le condizioni difficili in cui ha ereditato il paese, ha cercato in qualche modo di scaricare le colpe gravi di questa crisi economica sulla precedente amministrazione. E passando all'azione, ha detto il presidente, abbiamo anche dovuto aiutare le banche. Detestavamo tutti l'idea di aiutare le banche, ha detto Obama. Era doloroso come togliersi un dente, ma l'abbiamo fatto per il bene comune.